via con me, lasciando dietro un tempo che cancelli l'odio e la violenza che mi han fatto stare troppo tempo senza te. Se fossi tu, amore mio, a dare un senso a ciò che io da molto tempo sto cercando, guardando in alto vedo che la notte è scesa su di me, la notte col suo nero manto. Però non c'è nessuno al mondo, non nessuno al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. C'è una stanza nel mio cuore dove vivi solo tu, come in un tempio dell'amore aspetterei senza parlare un cenno tuo dalla distanza. E quando avrò capito che tu sei venuta qui per me a dirmi che non puoi stare senza. Però non c'è nessuno al mondo, non nessuno al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. Sono caduto qui, in quest'angolo di tempo, sono rimasto qui ad osservare quel che ho dentro. Poi sei arrivata tu a dare un senso. E ora non chiedermi a che penso, se c'è un motivo, se non c'è, perché lo sai che l'unico motivo dentro me è quello che adesso sto cantando. Nessuna è come te. Quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. Nessuna è come te. Nessuna è come te.